La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla sentenza del 3 febbraio scorso della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA che ha accolto il ricorso della Germania contro l'Italia per ottenere il blocco delle indennità alle vittime dei crimini nazisti. Ospite ai nostri microfoni lo storico Filippo Focardi, docente di storia contemporanea all'Università di Padova. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Il 9 maggio scorso si è svolto a Firenze un importante convegno sul tema dei processi e degli indennizzi agli internati militari italiani nei campi nazisti nel corso della Seconda Guerra Mondiale e alle vittime delle stragi naziste compiute nel nostro paese. Iniziativa che ha tratto spunto dalla sentenza del 3 febbraio scorso della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. Sentenza che ha accolto il ricorso della Germania contro l'Italia per ottenere il blocco delle indennità alle vittime dei crimini nazisti. In sostanza la Corte ha accolto tutti i punti del ricorso presentati dalla Germania, che accusava l'Italia e il suo sistema giudiziario di venire meno ai suoi obblighi di rispetto nei confronti dell'immunità di uno Stato sovrano come la Germania in virtù del diritto internazionale. E si è trattato, come sappiamo, di una sentenza che ha provocato molte polemiche e anche iniziative in sede diplomatica tra i due paesi. Peraltro se ne sta occupando anche una commissione di storici che tra breve renderà note le sue valutazioni in merito. Il 9 maggio a Firenze, dicevamo, storici, giuristi, filosofi si sono confrontati sulle questioni inerenti alla punizione dei responsabili dei crimini di guerra nazisti, sugli indennizzi per le vittime delle stragi, le deportazioni e dell'internamento, ma anche sulla elaborazione della memoria della Seconda Guerra Mondiale in Italia e in Europa. Sono intervenuti tra gli altri sindaci di Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e Civitella della Chiana, nonché il procuratore generale militare della Repubblica Antonino Intelisano. In occasione del convegno è stato reso pubblico un appello rivolto ai presidenti della Repubblica italiana e tedesca Giorgio Napolitano e Joachim Gauck. A nostro giudizio resta aperta la possibilità che la Germania proceda per motivi umanitari a misure volontariamente di aiuto nei confronti delle vittime italiane. Lo spirito di collaborazione sollecitato dalla sentenza deve comunque tradursi innanzitutto in concreti impegni bilaterali. Una collaborazione tra i due paesi sul terreno della politica della memoria potrebbe avere un grande significato. Auspichiamo un'incisiva azione dei due governi, con adeguati finanziamenti per promuovere collaborazioni tra istituti e fondazioni di ricerca dei due paesi, sviluppare comuni iniziative museali e lanciare progetti educativi transnazionali. Si devono proporre progetti di pace e relazioni internazionali, perché noi abbiamo bisogno di pace, solidarietà e di un lavoro costante tutti i giorni. Lo sviluppo di una politica della memoria potrebbe avvalersi dello sforzo congiunto dei due paesi, anche tenendo conto dell'auspicio formulato dalla Corte di Giustizia Internazionale per la prosecuzione di un negoziato Italia-Germania. La sentenza dell'AIA è giunta dopo che nel 2008, lo ricordiamo, per la prima volta la Corte di Cassazione aveva condannato lo Stato tedesco a risarcire i familiari delle vittime delle stragi compiute durante l'occupazione. La Cassazione aveva infatti respinto il ricorso presentato dalla Germania contro la sentenza della Corte d'Appello Militare di Roma, che aveva condannato Berlino a pagare i danni alle parti civili nei processi per l'eccidio nazista compiuto il 29 giugno 1944 in provincia di Arezzo, a Civitella, Cornia e San Pancrazio, in cui vennero trucidate 203 persone, tutte civili e in gran parte donne e bambini. La sentenza della Cassazione a suo tempo è stata considerata un precedente storico, poiché ha sancito per la prima volta il diritto per le vittime delle stragi naziste ad essere risarcite nell'ambito di un procedimento penale. Prima di allora c'erano state solo delle sentenze nelle cause civili per risarcimento danni chiesto dai cosiddetti schiavi di Hitler. Nessun altro paese al mondo aveva mai intentato cause di risarcimento nei confronti della Germania in ottemperanza della clausola dell'immunità giurisdizionale. Il contenzioso tra Roma e Berlino ha portato tra l'altro all'iscrizione di un'ipoteca giudiziaria su Villa Vigoni, centro culturale italo-tedesco, in provincia di Como. Ecco, con lo storico Filippo Focardi, che è docente di storia contemporanea all'Università di Padova, che ha organizzato il convegno di Firenze insieme a Leonardo Paggi, facciamo il punto su tutta questa annosa questione. Buonasera, professor Focardi. Buonasera a voi. Allora, l'iniziativa, lo ricordiamo, è stata promossa dall'Associazione per la Storia e le Memorie della Repubblica, dalla Fondazione Scuola di Pace di Montesole, dal Forum per i Problemi della Pace e della Guerra di Firenze, dall'Istituto Storico della Resistenza in Toscana e infine dal Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema. Allora, professor Focardi, quali iniziative, quali proposte, suggestioni sono emerse dal convegno? Beh, innanzitutto il convegno, i partecipanti hanno preso atto, e però abbiamo sottolineato nell'appello almeno due punti importanti, perché a nostro giudizio, nonostante questa pronuncia, resta aperta la possibilità che la Germania, come già fatto negli anni 60, proceda appunto per motivi umanitari a misure volontarie di aiuto nei confronti delle vittime del nazismo, sia le vittime delle stragi, sia le vittime della deportazione politica e razziale e soprattutto le vittime dell'internamento militare. Qui c'è un punto molto importante, perché la sentenza dell'AIA in realtà non è entrata nel merito della questione. Si è limitata a dare un giudizio di tipo procedurale, no? Violazione, certo, italiana dell'obbligo di rispettare l'immunità, però in alcuni passaggi fa anche riferimento al contenuto, alla sostanza, insomma, della posta in gioco. In uno di questi passaggi, ad esempio, esprime sorpresa e rammarico per il comportamento della Germania nei confronti degli internati militari italiani. Già, perché qua, oltre all'aspetto giuridico, ci sono dei rilievi anche, come dire, di tipo politico, diplomatico, oltre che, se vogliamo, etici anche in qualche modo. Certamente sono implicati tutti questi aspetti che lei ha indicato. E, dal nostro punto di vista, ci sembra che quantomeno la Germania potrebbe appunto predisporre delle misure volontarie di aiuto nei confronti di coloro, ad esempio, che versino in stato di indigenza. Sì. Questa è una posizione che ha espresso il giurista tedesco Jörg Luther, e mi sembra che abbia una sua rilevanza, e quindi c'è almeno questo auspicio, no? Misure volontarie d'aiuto nei confronti di tutte le categorie di vittime, con particolare attenzione agli internati militari e a coloro, a cominciare da coloro che versano in uno stato di difficoltà economica, di indigenza. Naturalmente però di indennizzi non si parla più. No, in realtà anche negli anni 60, quando la Germania, in base a un accordo bilaterale con l'Italia, no, destinò circa 40 milioni di marchi a indennizzare le vittime italiane del nazismo, non si parlò specificamente di indennizzi o di risarcimenti, ma anche lì di misure di aiuto. Okay. C'è dietro, okay, tutta una questione molto complicata legata al fatto che l'Italia, col trattato di pace del 47, formalmente aveva rinunciato a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti della Germania, però già negli anni 60 appunto si superò questo blocco giuridico trovando la forma dell'aiuto volontario come riparazione morale. Nel corso del convegno sono emerse anche altre importanti indicazioni, ad esempio l'istituzione di un fondo comune sulla memoria, il coinvolgimento della società civile, la messa a punto anche di un lavoro che dovrebbe coinvolgere una fondazione. Insomma, c'è una serie di iniziative che si stanno delineando. Ma guardi, questo è il punto più rilevante del convegno e dell'appello che è stato lanciato in occasione del convegno, vale a dire ci siamo rivolti ai due Presidenti della Repubblica perché diano una spinta al negoziato fra gli Stati previsto e auspicato anche dalla sentenza della Corte, ma con l'obiettivo da parte nostra soprattutto di mobilitare la società civile, mobilitare quelle istituzioni di ricerca, quelle fondazioni, gli enti stessi locali, le regioni, insomma tutti i soggetti coinvolti nell'elaborazione e nella trasmissione della memoria, perché appunto collaborino insieme su un piano bilaterale italo-tedesco, ma anche con apertura fra l'altro europea, insomma io non escluderei il coinvolgimento di altri soggetti in Europa, collaborano, dicevo, a progetti educativi, formativi, di elaborazione della memoria che tocchino appunto gli aspetti della Seconda Guerra Mondiale che hanno coinvolto l'Italia e la Germania, tutti compresi, anche quelli appunto più traumatici, soprattutto quelli più traumatici. E questo aspetto della memoria, sappiamo, professor Focardi, lei ha scritto un bel libro qualche tempo fa, La guerra della memoria, è un aspetto che le sta particolarmente a cuore. Certo, certo. Ma in particolare cosa si può fare? Ma noi appunto abbiamo proposto l'istituzione di un fondo che dovrebbe essere gestito da una commissione congiunta italo-tedesca, non intesa però esclusivamente come un organo tecnico-scientifico, ma aperto appunto alle istanze dal basso. Non è presente nell'appello alcun riferimento a una fondazione, anche se sappiamo questo è l'orientamento dei due governi. La commissione italo-tedesca degli storici, che è stata insediata nel 2009 e che concluderà i suoi lavori il prossimo giugno, ha già anticipato alla stampa alcune conclusioni, insomma alcuni obiettivi che si prefigge di realizzare. Fra questi figurano la creazione di un memoriale dedicato agli internati militari e appunto la costituzione di una fondazione storica italo-tedesca. Ora non so quale sarà la strada che appunto poi la Germania e l'Italia decideranno di prendere. A noi premeva sottolineare che è importante che però le iniziative sulla memoria non restino confinate a un livello solo di ministeri, non siano affidate a organi verticistici, ma appunto riescano a innescare il lavoro sul territorio della società civile, di tutte quelle istituzioni e quei soggetti che da tempo, fra l'altro, già operano sulla memoria e sulle memorie. Ed è proprio questo uno degli obiettivi del convegno di Firenze. Grazie e buona serata, professor Focardi. Grazie a voi, arrivederci.